mercoledì 30 maggio. Naturalmente siete in compagnia di Jerry, sarò con voi sino alle 17 a tenervi compagnia con tanta bella musica e qualche notizia al solito, beh ormai lo sapete. Vi ricordo subito i numeri per le vostre dediche, le vostre richieste, anche per farmi un saluto: il 335 56 37 251 e ancora lo 0921 92 32 92. Potete seguirmi in diretta streaming sul sito www.crmpiradio.it oppure sul nostro portale Facebook. Allora, che dite, cominciamo? Sì, non perdiamo tempo e cominciamo subito con la bella musica, naturalmente sempre qui di CRM Happy Radio. Their body parts fake, Dilly, Dally, I run through your mammy, and the answer's off the chain. I hit that thing so hard, she called 411 pain. Damn it, man. Let's go to Jamaica for Sean Paul. Then take it to Tally for T-Pain. Mommy move that ass like chitty chitty bang bang, chitty chitty bang bang. Oh yeah, shorty, what's happening? Girl, let's get this thing cracking. You just bend it on over. I'll get behind and you'll make it wild. Jump in the line, shake your body. Bang bang bang bang bang bang. See a wine pon his butt. Sean da Paul him a the cream of the crop. Pitbull him a do it non-stop. G05 to JA we a rock. Woo! Move up your body and set the trend. Y'all wine up your body and take to them. Y'all move on see your bubble and set the trend. Y'all wine up your body and take to them. Call him a the thing we no bother with that. Straight up party we taking charge. Shake it in our baby got back. Tell all of my friend them she a top notch. Oh yeah, sure it was Hanan. Hanan, girl, let's get this thing cracking. You just bend it on over. Now we get behind and you think it wild. Shake your body, but bang bang bang bang bang bang. Jump in the line, shake your body, young man. But bang bang bang bang. Jump in the line, shake your body, but bang bang bang bang bang bang. Jump in the line, shake your body, young man. Bang bang bang bang bang bang bang. Shake it, shake it, shake, señora, shake it left and right, right, work, work, work, work, work, señora, right into my right. My girl got a big old booty, yeah. Your girl got a little old booty. My girl got a big old booty, yeah. Your girl got a little booty. Got back. Oh no, my girl got a big old booty, yeah. Your girl got a little booty. Yeah, oh no, yeah. My girl got a big old booty, yeah. Your girl got a little booty. Oh yeah, shorty, what's happening? Happening, girl, let's get this thing cracking. Crackin'. You just bend it on over. Over. Now we get behind and you think it wild. Jump in the line, shake your body. Bang bang bang bang bang bang. Jump in the line, shake your body. Bang bang bang bang. Jump in the line, shake your body. Bang bang bang. Direi bene, no? Che ne dite? Sì, mi raccomando, fatemelo sapere. Io sono sempre qui ad aspettare le vostre richieste, le vostre dediche. Oggi una giornata veramente estiva, bellissima. Speriamo che duri e che non cambi. C'è da aspettarsi di tutto, visto gli ultimi giorni un po' sono stati un po' così, eh. Donna meravigliosa, sei donna pericolosa. Cerchi e poi ti perdi a così. Io non so l'amore, guerra o pace, o collaborazione, grande partecipazione. Regina di cuori tra mille colori, Sei tu la più bella e della notte la mia stella, regina di cuori, di verso di fiori. Ti giuro l'amore, ma non è terra fedeltà. Mami, non mami, ma mami, o forse sì, oh no, oh. Mami, succede, succede un finimondo, perché l'amore amare è un mare meraviglioso e mentale. E il cuore agro dolce in gola mi lascia e poi ti lasci andare per poi ritornare. Regina di cuori, tra mille dolori, sei sempre più bella e nella notte la mia stella. Regina dei fiori, stratega d'amore, ti muovi felina con la certezza del tuo sesso. Mami, non mami, ma mami, dici che mami, non sai se mi ami. Mami, non mami, ma mami, dici che mami, non sai se mi ami. Oh, regina di cuori, mi mangi di fuori, così. Genera rosa, è una spina, genera spina, è vivo tra mille tentazioni, per pensieri peccaminosi, perché ogni storia è una farfalla in fasce, che ci trasforma, altrimenti non cresce, e si trasforma, ci trasforma. Regina di cuori, dei gioi e dolori, li do pure io, se non sto bene con me stesso. Veleno d'amore, regina del mio cuore, la tua strategia è solo ponte tra i due sessi. Mami, non mami, ma mami, dici che mami, non sai se mi ami. Oh, mami, non mami, ma mami, dici che mami, non sai se mi ami. Regina di cuori, mi mandi di fuori, così. Mami, non mami, ma mami, dici che mami, non sai che mi ami. Forse che sì, forse che no, forse si può, forse non si può. Mi mandi di fuori, regina. Regina di cuori, qui in diretta su CRM Happy Radio. E a proposito dei Litfiba, per la prima volta nella loro carriera, il 1 giugno, dopo la riappacificazione, saranno allo stadio Artemio Franchi di Firenze per un concerto evento dedicato alla loro città. E per l'occasione sul palco saliranno con loro ospiti d'eccezione che hanno fatto parte della storia della band: Antonio Aiazzi alle tastiere, Gianni Maroccolo al basso, come nella formazione degli anni 80, e suoneranno i brani più rappresentativi di quel periodo. E inoltre insieme ricorderanno Ringo De Palma, scomparso proprio il 1 giugno di 22 anni fa. E oggi, mercoledì 30 maggio, alla FNAC dei Gigli di Firenze, tutti i fan potranno incontrare Litfiba e acquistare biglietti per il concerto fiorentino, sentite un po', al prezzo speciale di 15 euro. Quindi per tutti i fan dell'Litfiba, recatevi a Firenze per questo concerto, naturalmente sempre molto suggestivo, molto bello, dell'Litfiba. E noi continuiamo sempre con la bella musica, sempre siete in compagnia di Jerry sino alle 17. Arriva lui, Michael Bublé. Could you be a teenage idol? Could you be a movie star? When I turn on my TV, will you smile and wave at me, telling Oprah who you are? So you want to be a rock star, with blue-eyed bunnies in your bed? Well, remember when you're rich that you sold yourself for this. You'll be famous 'cause you're dead. So don't go higher for desire. Put it in your head, baby, Hollywood is dead. You can find it in yourself. I don't want to take you dancing, Saluto la nostra amica radioascoltatrice Antonietta che ce l'ha richiesta sempre qui al 335-5637-251. Mi raccomando, fatelo anche voi. A proposito di Michael Bublé e la sua giovanissima moglie, la modella Louisiana Lopilato, hanno da poco festeggiato il primo anniversario di matrimonio, collegandosi però con le videotelefonate di Skype, un programma informatico che conosciamo benissimo per la comunicazione a distanza. I due sono sempre molto impegnati per lavoro e spesso si trovano in luoghi troppo distanti per incontrarsi, così sfruttano il servizio di messaggistica online per sopperire alla mancanza di incontri faccia a faccia. Beh, speriamo che riusciate poi a trovare subito, a rimediare, insomma, poi a festeggiare proprio faccia a faccia. Che così, certo, a messaggiare, a festeggiare il primo anniversario di nozze così da lontano, beh, non è che proprio sia favoloso, però vabbè, ci si accontenta, poi naturalmente recupereranno sicuramente. E noi continuiamo, e adesso arrivano loro, i Modà. Non chiamo mai, ti cerco solo quando poi ho voglia di assaggiarti e di confonderti. Me l'hai insegnato tu, che quando scappi e sei distante ti cercano sempre. Il gioco lo comandi tu, ti chiamo stupida, ti prendo pure l'anima e non sai mai quando ritorno, forse sì, è quel mio essere un po' bastardo che se ci penso è quello che ti piace di me. Spogliati senza dolcezza e senza regole. Giurami che

Grita, questo è il loro nuovo singolo Un giorno di ordinaria magia, che tra l'altro è estratto dall'album Dannato Vivere, che ha, diciamo, avuto un ottimo impatto sulle classifiche italiane, infatti esordio al numero 2, e poi anche grazie al successo del primo singolo Brucerò per te. Questo nuovo brano, appunto Un giorno di ordinaria magia, che abbiamo appena ascoltato, è già in rotazione radiofonica da qualche giorno. Una canzone pop nella migliore tradizione denigrita, venata da atmosfere quasi reggae, che sembra essere scritta su misura per essere poi ballata in spiaggia. Un testo che autorimicamente sbeffeggia emblemi e simboli di successo dello Star System, per un singolo che rischia seriamente di diventare il prossimo tormentone estivo, quindi tra poco. I Negrita attualmente sono impegnati in un lungo tour nei palazzetti delle principali città italiane, che poi si concluderà con il concerto finale al Forum di Milano il prossimo 7 settembre. Quindi mi raccomando, non perdete i fantastici Negrita. E noi continuiamo ancora con la bella musica, e adesso chi tocca? Sì, arriva lei, la straordinaria Madonna. Melania, che ce l'ha richiesta sempre qui al 335 56 37 251. Vi ricordo anche lo 0921 92 32 92, e ancora potete seguirmi in diretta streaming sul sito www.crmepiradio.it. A proposito di Madonna, svela su Facebook i particolari inediti del nuovo tour che partirà il 31 maggio, praticamente domani, da Tel Aviv. E sul social network, infatti, sono comparse le immagini delle prove del concerto, che anticipano gli ingredienti dello show mondiale, che in Italia si fermerà con 3 date. Fate attenzione. 12 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, il 14 allo Stadio Meazza di Milano e il 16 allo Stadio Franchi di Firenze. La Material Girl intanto è già in Israele per l'atteso concerto in Terra Santa. La pop star non è ebrea ma ha adottato il nome ebraico di Esther e da anni studia il misticismo ebraico, diventando un'adepta della Kabbalah. In Israele la chiamano Queen Esther e i media locali annunciano che la regina quindi è arrivata. La Madonna ha deciso di recarsi quindi una settimana prima in Israele per visitare i più importanti luoghi sacri. Tornando al tour, la star da mesi si sta sottoponendo ad un'attività fisica estenuante per 2 ore al giorno per essere al massimo della forma. Di certo non mancheranno sexy coreografie e forse alcuni passi di break dance. Sembra infatti che Maddie, così soprannominata anche, non sappia mettere in fila 2 passi della nuova danza tanto amata dai suoi figli e per questo quindi ha preso sul serio l'impegno della ricerca di un istruttore di break. Il nuovo tour sarà quindi l'occasione per mostrare i miglioramenti. Bene, brava Madonna, brava bella, fantastica devo dire. E noi continuiamo ancora con la bella musica, naturalmente sempre in diretta su CRM Happy Radio. E non senti male ai piedi, ti seguo già da un po'. Guardi con 2 occhi neri e stanchi e non mi vedi e passi avanti. Io ti seguo ancora per un po'. Chi l'avrebbe detto prima che un giorno sarei andato dietro a te, come quando un uomo cerca di io. Questa corsa non ha senso se il senso ci ha perso dietro te. Guardo su cui cadi, io ti osservo già da un po' e ti perdi nei tuoi stessi occhi stanchi e mi illudi e passi avanti, forse aspetto un altro po'. Chi l'avrebbe detto prima che io avrei perso tempo dietro a te, come quando un uomo cerca di io, non lo trova e più impazzisce, io impazzisco se rimango ancora senza te. Vorrei odiarti un po', senza nemmeno yeah. Semplicemente insieme e naturalmente rigorosamente in diretta su CRM Happy Radio. E noi continuiamo con la bella musica, musica italiana. Arriva lei, Arisa, con il suo nuovo singolo, L'amore è un'altra cosa. Ridere, adesso manca il nostro ridere. Rimane solo un quieto vivere sterile. Il cuore mio non ce la fa. Semplice, sembrava tutto così semplice, per chi credeva nelle favole come noi, cercando un'altra verità. Senti che ci manca qualcosa, che c'è sempre una scusa, che la gioia si offesa, che non c'è la scintilla. L'amore è un'altra cosa. L'amore è un'altra cosa. L'amore è un'altra cosa. Utile. Adesso dirsi tutto è utile. Farà del male a queste anime fragili. Di ogni altra verità. Resta che una parte del cuore sarà sempre sospesa, senza fare rumore, come fosse in attesa di quel raggio di sole che eravamo io e te. Senti che ci manca qualcosa. C'è sempre una scusa, che la gioia si è offesa, che non c'è la scintilla, che si è spenta la stella, ma una colpa non c'è. La notte è troppo silenziosa adesso, l'amore è un'altra cosa. L'amore è un'altra cosa. Dal successo al Festival di Sanremo con il secondo posto della notte, adesso arriva quindi il suo secondo singolo, appunto L'amore è un'altra cosa. E parte il 1° giugno il tour che porterà la cantante in giro per tutta Italia. Poi naturalmente sarà impegnata con i provini di X Factor, ma pensa già al prossimo anno, dice: voglio vivere un po' a Manhattan, dove potrei fare la truccatrice o la cantante di strada. Beh, noi intanto gli facciamo tantissimi in bocca al lupo e che vada tutto per il verso giusto, per il meglio. E noi continuiamo ancora, siete sempre con me sino alle 17. Let's go.

saluto il nostro carissimo radioascoltatore Simone che ce l'ha richiesta sempre qui allo 0921 92 32 92. Vi ricordo anche il 335 56 37 251. Volentieri, soprattutto con il cioccolato che io adoro in modo particolare. E poi riguardo al cioccolato c'è una bella notizia, una buona notizia, perché appunto ama il cioccolato come me, perché una versione modificata del delizioso dolce è risultata, sentite un po', fondamentale contro l'invecchiamento. Questa sì che è una bella notizia. Lo rivela uno studio effettuato dall'Università di Cambridge nel Regno Unito. Il team di ricercatori ha messo a punto una ricetta speciale che trasforma le normali tavolette di cioccolato in gustosi farmaci anti-invecchiamento. La tecnologia aumenta l'assorbimento da parte dell'organismo dei flavonoli del cacao, molecole contenute nel cioccolato che favoriscono l'ossigenazione della pelle. L'effetto dei flavonoli è da sempre considerato un fattore essenziale nel rallentamento dei processi degenerativi dell'epidermide causati dall'avanzare dell'età. Vabbè, sì, lo sappiamo. Ora è stato possibile potenziare l'effetto grazie all'aggiunta di un ingrediente chiamato Coco Lysome, che modifica il cioccolato rendendolo più salutare e amplificando di 20 volte l'azione dei flavonoli rispetto a quanto accade nel cioccolato comune.

su questa canzone saluto un'altra nostra carissima amica Giovanna, che ce l'ha richiesta sempre qui al 335-56-37251. Vi ricordo ancora lo 0921-92-3292. Potete seguirmi anche in diretta streaming sul sito www.crmhappyradio.it oppure ancora sul nostro portale Facebook. From the start, we met with a goodbye kiss. I broke my wrist, it all kicked off. I had no choice, you said that you didn't mind, 'cause love's hard to find. La la la la. Coloro i quali sono alle prese con la mansione quotidiana di tenere a posto una casa, ovvero quindi riordinare gli oggetti che continuamente vengono lasciati in giro. Un vero lavoraccio, specie quando si lavora fuori casa e si ha poco tempo, quando siamo, diciamo, inguaribili disordinati. Beh, per risolvere questo spinoso problema, fonte tra l'altro di liti domestiche a non finire, è allo studio un robot in grado di guardarsi attorno in una stanza, identificare diversi oggetti presenti, collegarsi al loro luogo di appartenenza e di riportarli al loro posto. Fantastico, no? Diciamo che il robot dei miracoli è stato sviluppato dai ricercatori della Cornell University negli Stati Uniti. Il prototipo è praticamente munito di un braccio meccanico e di camere ad alta definizione grazie a degli elaborati algoritmi interni ed è in grado di capire, ad esempio, che il posto di una scarpa non è il frigorifero ma il pavimento, ha spiegato l'ingegnere a capo del progetto che è stato presentato all'International Conference of Robotics. Una volta che quindi il robot ha capito il posto adatto per un certo oggetto, crea una simulazione grafica di come quell'oggetto apparirà al suo posto ed elabora quindi la serie di movimenti necessari a riporlo. Beh, se l'automa si dimostrerà in grado di assolvere davvero a questo compito, beh, sicuramente farà la felicità di molte mamme alle prese con il disordine di tutta la famiglia. Ma chi invece nel suo caos vive bene e trova comunque tutto potrebbe avere vita dura. Eh già. Quindi però questo se funzionerà sarà sicuramente di ottimo aiuto per tutte le mamme, per tutte le casalinghe che ogni volta sono costrette a riordinare, a sistemare tutto quello che lasciano in giro i figli, i mariti, eccetera. Adesso noi continuiamo e andiamo ad accontentare una carissima radioascoltatrice, Chiara, con Distratto, Francesca Michelin. Giorno o poco più, per quanto ancora ci sarai tu a volermi male di un male che fa solo male, ma non ho perso l'onestà e non posso dirti che passerà tenerti stretto quando in fondo sarebbe un inganno. Vedi che sto piangendo, chi se ne accorge non sei tu, tu sei troppo distratto. Un'ora, un giorno o poco più, dicevi sempre per sempre, sì però, guarda cosa è rimasto adesso, che niente è lo stesso, se non fa rumore l'anima. Quando sei qui davanti non si illumina, è perché non ne sento più il calore, non ne vedo il colore. E non vedi che sto piangendo, e se ne accorge non sei tu, nel tuo sguardo distratto. Male adesso se non ti riconosco. you again and again and again and again. Now everybody asks me why I'm smiling up from ear to ear, but I know, oh, nothing's perfect, but it's worth it after fighting through my tears. And finally you put me first, baby, it's radioascoltatrice, e poi naturalmente ritorniamo per i saluti finali. E vado quindi ad accontentare la nostra amica Francesca, che ci ha richiesto appunto Giorgia con Jovanotti, Inevitabile. Poi ritorno. L'amore poi cos'è? Dammi una definizione. Combinazione chimica, mole fisica, attrazione. Sai dire tu cos'è? Se ti innamorerai, sarà un incrocio di emozioni. Inevitabile, non ci sono spiegazioni. Non ci sono spiegazioni. E non è chiaro neanche a me. Si dice amore quando si accende, che più rovente non c'è. Sbatterci contro è inevitabile, sta capitando proprio a me. Si dice amore se tutto prende, ma non ti importa perché. Serve, è questione sai di tempo, ci sorprende prima o poi, prima o poi. Questo è la fuori di te.